Letture di Radio 24. Sei gay? Non puoi guidare. Sembra essere questa l'idea che circola tra alcuni funzionari della motorizzazione. Dopo il primo caso in cui un omosessuale è stato dichiarato inabile alla guida, a Brindisi un altro ragazzo si è visto negare la patente per lo stesso assurdo motivo. Ma chissà che idea circola tra i funzionari della motorizzazione italiana a proposito dell'omosessualità, vista la preoccupante ostinazione nel negare la patente ai gay. Era già successo non molto tempo fa a Catania, dove un 28enne era stato considerato inabile alla guida, perché essendo omosessuale e in quanto tale affetto da disturbo dell'identità sessuale, non disponeva dei requisiti psicofisici richiesti per condurre un'automobile come fosse cieco, mutilato di una gamba o paraplegico. Per fortuna, il giovane siciliano, consideratosi giustamente del tutto sano di mente e di fisico, aveva fatto ricorso ottenendo non solo la restituzione del permesso, ma anche un cospicuo risarcimento dei danni dai ministeri della difesa e dei trasporti. La cosa sembrava un monstrum non ripetibile a breve, un quasi unicum su cui riflettere, certo ma ottimisticamente ascrivibile a uno stupido errore, a un lapsus, allo zelo di un funzionario razzista o semplicemente deficiente. Invece no, nel giro di poco tempo ecco il secondo caso, fotocopia di quello catanese. Questa volta siamo a Brindisi e la decisione è la stessa. Cambia solo, ma di poco, la motivazione, dove si definisce l'omosessualità una patologia che potrebbe risultare di pregiudizio per la sicurezza della guida. Basterebbe solo la sintassi a fare urlare all'orrore, ma la vera bestialità è indubbiamente nel contenuto, e cioè nella palese discriminazione che calpesta i più semplici diritti civili. È allarmante che mentre si discute dell'urgenza di debellare la piaga quotidiana della crescente violenza omofobica, crescente particolarmente in Italia, si scopre che l'ostilità è nascosta nel tessuto della stessa amministrazione, della burocrazia, insomma delle stesse autorità che dovrebbero censurarla duramente. Ridicolo e grottesco, si sposano con una sorta di grettezza di Stato, secondo cui l'omosessualità sarebbe una malattia, che impedisce persino di cambiare le marce, accelerare, frenare, distinguere la segnaletica stradale, accendere i fari al buio, riconoscere un senso unico e uno stop. Stop. Che qualcuno dall'alto imponga uno stop a questa idiozia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Se il gay non può guidare» di Paolo Di Stefano, dal Corriere della Sera di giovedì 12 maggio. Letture di Radio 24. Troppi laureati? Troppi universitari? Domande che, a dispetto dell'attuale luogo comune, trovano una risposta negativa nel nostro paese. Paradossalmente, dopo una scuola dell'obbligo reputata facile, dove pare sia quasi vietato bocciare, scendono il numero degli iscritti alle università e i laureati. Tutti studenti universitari? Tutti laureati? Sono in molti a pensare che i giovani italiani stiano fuggendo dai lavori manuali o dai lavori più umili e vedono la laurea come un traguardo naturale dei loro studi. Questa immagine non è mai stata corrispondente alla realtà, perché l'Italia ha sempre avuto molti meno laureati degli altri paesi avanzati. Però, fino a qualche anno fa, l'immagine di una gioventù che aspira alla laurea coglieva almeno una tendenza reale. Dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90 sono sistematicamente aumentati gli studenti iscritti alle scuole secondarie, superiori e all'università e, conseguentemente, il numero di diplomati e di laureati. Oggi non è più così. Nell'ultimo decennio la tendenza si è invertita. A partire dal 2000 la propensione dei diplomati a iscriversi all'università è in costante diminuzione. Era intorno al 75% 10 anni fa e scesa intorno al 65% oggi. Non solo. Negli ultimi anni ha cominciato a diminuire anche la percentuale di giovani che riescono a conseguire un diploma di scuola secondaria superiore. Era quasi l'80% nel 2006-2007. Sta scendendo verso il 70% oggi. La risultante di queste due forze, meno diplomati, meno proseguimenti all'università, è che la percentuale di 19enni che inizia l'università ha cominciato a scendere. Era inferiore al 30% fino a metà degli anni 80. Aveva superato per la prima volta il 50% nei primi anni 2000, fino a toccare il massimo storico, 56,5%, nel 2003-2004. Ma da allora ha cominciato a scendere inesorabilmente, fino al 47,7% del 2009-2010, ultimo dato disponibile. Oggi, a differenza di 10 anni fa, i giovani che nemmeno tentano l'avventura universitaria sono di più di quelli che la affrontano. Perché? Non lo sappiamo. Probabilmente per un mix di ragioni diverse che in questi ultimi anni si sono venute a sommare. Le prime che vengono alla mente sono il rendimento decrescente della laurea, in termini di redditi attesi e di probabilità di occupazione, e l'impoverimento delle famiglie, legato alla stagnazione economica dell'ultimo decennio. A me pare però che ci sia anche un'altra ragione, su cui per lo più si preferisce glissare. La qualità sempre più scadente di professori e studenti, a tutti i livelli dell'istruzione, dalla scuola elementare all'università. Contrariamente a quanto comunemente si crede, l'abbassamento degli standard non favorisce affatto l'istruzione di massa. O meglio, la favorisce nella scuola dell'obbligo, dove vige la regola non scritta «è proibito bocciare», ma alla lunga la ostacola nell'istruzione superiore, perché i danni cognitivi che la scuola facile, fino a 13 anni, infligge alle menti dei ragazzi, sono spesso irreversibili e comunque troppo ampi per consentire di portare a termine studi che, per quanto dequalificati, richiedono conoscenze e capacità che la scuola ha rinunciato a trasmettere a tutti i suoi allievi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Scuola dell'obbligo facile, vietato bocciare, il risultato è paradossale» di Luca Ricolfi da Panorama del 12 maggio. Esiste il farabutto perfetto? Si domanda Massimo Gramellini sulla Stampa. Pare proprio di sì. La risposta la fornisce lo stesso editorialista, portando l'esempio dell'ex fidanzato della cantante Adele Atkins. Esiste in natura il farabutto perfetto? Il pensiero di molte lettrici starà correndo al maschio che ha scompigliato la loro vita o parti consistenti di essa. Però qui si parla dell'archetipo, del modello che tutti noi, farabutti imperfetti, ci sforziamo per tutta la vita di raggiungere o, viceversa, di sfuggire. Ebbene, il farabutto perfetto esiste, abita a Londra ed è l'ex fidanzato della cantante Adele Atkins. Adele è una cantautrice di 21 anni che ha scalato le classifiche del mondo intero senza l'ausilio di un fisico bestiale, ma solo con la forza della sua voce e delle sue canzoni. I testi tormentati e le atmosfere struggenti traggono ispirazione dalla storia d'amore con l'uomo che l'ha conquistata, maltrattata, irrisa, tradita, mollata, ripresa, illusa, ingannata e infine lasciata. Per un'altra e per sempre. Il campionario completo, insomma. Ma non è vero che il dolore devasta soltanto. Quando penetra in un'anima sensibile, ne rischiara gli angoli bui, consentendo di scoprire tesori altrimenti ignorati. Per Adele è stato così. Il dolore le ha scavato dentro un traforo al di là del quale c'era il successo. Solo che con il successo sono arrivate 7 telefonate dell'ex. Una in fila all'altra, e tutte con la stessa richiesta, i diritti d'autore. In fondo, è la tesi di lui, se io non ti avessi fatto del male, tu non avresti mai scritto queste canzoni. Perciò mi merito una parte dei tuoi guadagni. Il farabutto perfetto. Così perfetto da aver regalato alla sua vittima, oltre alla gloria, la soddisfazione di sbattergli finalmente il telefono in faccia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Il farabutto perfetto» di Massimo Gramellini, dalla Stampa di mercoledì 11 maggio.